Blu Radio Sera. Eccoci qua, buonasera a tutti, sono le 21.03 di martedì. Questo è lo spazio dedicato al Blu Radio Sera, ma come sempre quando ci sono io gli spazi di Blu Radio Sera non servono più, ci sono i live. Sentiamo qualcosa dal vivo. Io sono molto soddisfatto questa sera perché direttamente da Brescia arrivano i Charlie Cinelli Band, ci parliamo così? Charlie Cinelli Band, va bene. Perfetto, Charlie Cinelli Band, sono quattro ragazzi di Brescia. È importante, specificato, che canteranno in bresciano. È un primo esperimento, è la prima volta che facciamo questo esperimento qua. Ma è un esperimento molto positivo, molto interessante. Poi chiaramente Charlie mi tradurrai qualche pezzo. Ogni tanto non tradurre per forza perché il dialetto è un po' duretto. L'idea di questa band, Charlie, come è nata, come si è sviluppata? Perché tu hai suonato con un sacco di gente, hai suonato con tanti artisti, ma l'idea come è cominciata, come è partita? La tua carriera, come è partita? Forse proprio perché ho lavorato con tanti artisti. Sì, hai lavorato con tantissimi artisti. E fare il turnista, come si dice. Esattamente, il sesso, ma a un certo punto può diventare un po' pesantino, soprattutto se non sei entusiasta di quello che vai a fare. No. Cioè eri un po' stanco forse? Sì, ero un po' stanco andare a suonare Amore Mio. Fare sempre le solite cose per tante volte. Musiche pop. Musiche pop con la P maiuscola. allora mi sono detto, provo anch'io quasi quasi a scrivere qualcosa. Esatto. Una ventina d'anni fa ho cominciato a scrivermi le canzoni, sempre, non sempre in dialetto bresciano, anche in italiano, con l'inglese, insomma un mix. No, hai fatto un mix, perché tu sei stato anche all'estero più di una volta praticamente. Sì, ho vissuto anche all'estero e ho suonato anche in Inghilterra, in Scandinavia. E che esperienza ti ha dato essere vissuto all'estero per un po' di tempo? Quella musicale. Parlo di quella musicale, sì. L'esperienza musicale parecchio perché ho avuto modo di lavorare con artisti bravi, con gente che ci ha fatto suo. E poi è tutto molto diverso all'Italia, no? Certo, e come mai è tutto diverso, Charlie? Perché è tutto più organizzato. Forse perché la musica e i musicisti sono più valorizzati. Quindi il musicista cioè in Italia viene considerato. Fai il musicista, non viene considerato proprio, invece all'estero viene musicista, ma il lavoro che fai? Esatto, questa è la solita domanda, la solita risposta. Invece all'estero il musicista è qualcuno che fa qualcosa, che serve a qualcosa. Esattamente. Soprattutto nei paesi in cui sono stato io, ho vissuto tanto in Germania, dove mi sentivo i primi tempi trattato come un principe, no? Dico, caspita, però non è che io sia così una persona importante, invece essendo un musicista venivo trattato come un professionista. Un lavoro, perfetto, certamente. E lavoravo parecchio. Poi ho avuto modo di conoscere in Inghilterra dei jazzisti bravi. Ti faccio un... Sì, fai qualche nome. Mi è rimasto impresso un certo Martin Taylor, che forse conosci. Sì, ho sentito nominare. Ho suonato qualche volta. Jeff Brown, che è un cantante di jazz, di swing, di jazz, e vari altri, insomma. Poi nel resto dell'Europa ho lavorato anche con formazioni di musica da ballo. Certo, hai fatto orchestre, sei andato in giro. Sì, ho imparato a leggere la musica anche senza averla scritta, insomma. Poi ho visto nella tua biografia che hai inciso parecchi live con Cocciante, con Renato Zero, con Mario Lavezzi, con Baccini, molti live, cioè hai partecipato alle tournée di questi cantanti. Sì. Ed eri un po' stanco, dicevi. Stanco soprattutto perché si va in giro tanto, si spendono tanti soldi e se ne vanno a pochi. È quello il motivo. Poi ho visto che hai inciso anche le famose Strade di Fuoco, era un disco che non ha avuto tanto successo, ma era un disco abbastanza positivo di Loredana Bertè. Sì. Cosa dici? La canzone che ho scritto io. Ecco, perfetto, tanto per cambiare. Così. Quindi hai girato. E poi l'idea di fare il trio Charlie and the Cats, come mai è uscita quella? Una specie di reazione a quel mondo lì pop, canzone melodica italiana. No? Ho capito. Mi ricordo durante un'estate caldissima in Sicilia, sono lì che tutti quanti vanno in piscina perché fa caldo, facciamo il bagno. Eravamo in giro con Cocciante, mi sembra. Io e altri tre o quattro scalmanati. E invece mi sono ritirato in stanza, visto che c'era la bella aria condizionata, si stava bene, bel fresco, col frigo bar pieno, e ho detto quasi quasi mi metto qua e suonicchio un po' la chitarra, mi diverto un po' invece di stare. E mi è venuto in mente un primo brano, così, una cosa molto leggera, che musicalmente mi attizzava, e tornando a casa poi in pullman, mi sembra, quella notte lì, quei giorni lì, ci ho dato anche un testo. Quindi l'ha buttato giù. Bresciano. Perfetto, e così hai cominciato. E parlava questa canzone di una signora un po' grezza, che si lamenta sempre di tutto e che ha delle abitudini un po' pesanti, e si chiama Gina. Ho capito. La canzone si intitola Vagina. Ah, perfetto. Okay. Non se... la cantiamo qua stasera. No, c'è la Chiara che sorride, Chiara è la nostra fotografa, in regia c'è Marco Borgato stasera, quindi lo staff di Blu Radio Sera è così composto. Presentiamo i nostri amici, Charlie. Sì. Io lascerei parlare il mio carissimo amico e collega, Andrea. Vai Andrea. Saluti a tutti, io sono uno di quelli che ha conosciuto, a parte che siamo anche compaesani, ma io ho avuto la fortuna di ascoltare Charlie quando facevano i concerti con i Charlie and the Cats, che era un trio devastante, veramente implacabile. Ma facevano rock and roll, Andrea, rock cosa roll, facevano? Proprio rock and roll funk, ma da paura proprio. Cioè, perfetto. Spaccavano in quattro e niente. Dopodiché, in un certo punto mi ha detto, ma tu suoni la fisarmonica, sto per fare delle cose un po' più legate alla tradizione, eccetera, e lì è cominciato, ma veramente, poi era così importante perché molti, quando Charlie ha introdotto il dialetto bresciano nella musica è stata una cosa rivoluzionaria per tanti motivi. Io li andavo a sentire per i testi, ma io questi qui, quando questi tre demoni, perché c'era lui e alla chitarra, che ha un sound veramente unico. Che chitarra aveva Andrea? Classica, cioè acustica o una Fender? Stratocaster? Chitarra elettrica, poi non me ne intendo, ma ti assicuro che suono spaccava. Spaccava. Valvole a manetta. Ah, ma bello, bello, bello. Batteria basso, ma lui con questa. Anche perché è un interprete di cover, anche se vuole, è uno dei più grandi cantanti di standard jazz italiani, se benissimo, benissimo. E niente, insomma, quella volta mi hanno detto, guarda, sto facendo queste cose nuove, mi servirebbe una fisa. Siccome noi avevamo fatto con un nostro amico molto simpatico un trio che si chiamava I Tangheri, per suonare tanto. No, si può anche dal vivo, anche se si sente la Coca-Cola dal vivo, non cambia niente, assolutamente. No, pubblicità. Va bene, non ha problemi di pubblicità. Niente, insomma, lì è tornato tutto e siamo qua. Benissimo. Poi c'è Marco, che suona la chitarra acustica stasera. Ciao a tutti, Marco. Anche da poco con Charlie, a parte un'esperienza di esattamente 10 anni fa, nel 2001, quando è uscito Nome e Cognome. Che è il disco che do qui la prima traccia del programma, la tiriamo fuori proprio da quello. E adesso il piacere e l'onore di suonare con Charlie in questa piacevolissima avventura. E poi il violino, che il violino è sempre uno strumento straordinariamente bello, affascinante. Tu sei Enzo, cosa mi dici del tuo violino e del rapporto con Charlie, Enzo? Con Charlie ho iniziato a collaborare, a lavorare circa 10 anni fa, anch'io con Marco, con Nome e Cognome. E in questi 10 anni suono nel suo gruppo, più che altro nell'ambito folk. Ah, folk. Quindi insieme a Andrea, Charlie non con la chitarra elettrica, quella acustica. Con l'acustica. Ho capito. Poi ho letto che Charlie hai fatto 25 repliche della commedia dialettale, e che mi dici come si intitola? Perfetto, che vuol dire tralala. Tralala. Molto bene. 25 repliche hai fatto, quindi. Sì, quindi è stato una commedia dialettale, sai, con la compagnia locale di una filodrammatica di paese. Abbiamo deciso di fare questo connubio e abbiamo riempito 25 serate. Però, interessante questo. È stata una bella esperienza. Allora, adesso apriamo la nostra esperienza, sentiamo il primo pezzo che abbiamo scelto, questo da disco. Poi, siccome il programma dura fino alle 10:30, abbiamo deciso io e il regista di farvi suonare al massimo, perché siete proprio una band da far suonare. Il pezzo che abbiamo scelto da Nomi e Cognomi, traduco in italiano chiaramente, come si chiama il pezzo? Si intitola Nomi e Cognomi. Perfetto, ok. Del naher megodit che ora el che anche meskede godomandat que pode al man cai quan que ora hit l'elde ma rispondit an angeli che hedef el to liber de la vita e me comparve anti in libri tu aver la prima pagina Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci, non è il pezzo, non è Ligabue, ma è di Charlie Band. Questo qua non c'entra niente con Ligabue. No, ma guardate, dimmi, dimmi Andrea. Questo pezzo, che è una poesia, peraltro, poi è di un grande poeta, poi Charlie, di Riccardo Rigosa. L'importante è che Charlie ha cantato e suonato tutto. Ha fatto lui, praticamente. Sì, sì. Chitarre, batterie, doppie voci, di tutto, triple voci, cioè. Perché sai, io vengo dalla Valtrompia, cioè? È un posto dove si lavora tanto, si tutto. Presto, la sera tardi, si torna a casa neri, sporchi e si fa i lavori di casa. Quindi io lavoro, faccio tutto io. One man band praticamente. One man band. Esattamente. Andrea, mentre il pezzo andava, facevi una considerazione sugli Eagles, Andrea, adesso la puoi fare direttamente in diretta, live. No, cioè, questo è un pezzo fantastico che tutte le volte che lo sento in cuffia a volumi esagerati, penso sempre che è veramente da radio americane, cioè c'è un vocabolo che in spagnolo si dice sabiduría, cioè sapienza proprio in questo pezzo, che è molto spesso certa musica come questa fa difficoltà a passare nei canali radiofonici. Per fortuna che ci sono spazi come questi che garantiscono la possibilità agli strumentisti di farsi sentire, ma questa è una canzone bella a prescindere proprio. Come l'ha inventata allora Charlie questa canzone? Leggevo le poesie di questo poeta che si chiama Regosa, di un paese, della provincia di Brescia, che si chiama Manerbio. Lui manerbiese, degli anni 40-50, scomparso penso a fine del 50, operaio, metà meccanico, per cui una persona umile, senza neanche discendenze nobili. Certo, senza nessun pedigree, come si dice. Ne aveva studiato granché, però con una grande sensibilità e una grande umiltà, e ha scritto delle cose bellissime, tra quali questa che posso, sì, della quale posso accedere una traduzione. Vai, vai. Sono nato in una siepe di spini, di rovi, e nel nascere mi sono detto, ma è proprio questo il giorno in cui devo nascere, cioè c'è un angelino che mi ha detto, guarda qua, questo è il tuo libro della vita, e si apre un gran librone, dice, e sulla prima pagina c'è scritto nome e cognome, nato per tribolare. Ah, perfetto. Questo è l'inizio. Quindi già fa capire cosa vuol dire. Rifletteva un po' la sua condizione di povero, di operaio, insomma. Però era un grande poeta. Ecco, allora la musica è venuta così un po' a caso. Non è che... E qualcuno ha scritto giustamente che tu sei un ricercatore, cioè ricerchi, trovi, scovi determinate vecchie cose, anche non cose recenti, vecchie cose, le riprendi, le rimetti in musica e le canti in bresciano. Quindi una ricerca, tanti facevano delle ricerche anche in Italia, non solo te, soprattutto nel meridione c'erano stati dei musicisti che fanno del tipo di ricerche, ma questa è una ricerca vera, proprio un scovare delle cose antiche o antiche, non propriamente nuove, e poterle mettere che possono sentirle tutti, capirle tutti. Sì, poi è stupefacente scoprire quanto sia attuale il discorso di 100 anni fa, certo, no? Che riguarda il vivere comune, insomma, che non è cambiato molto. No, non c'era la tecnologia, ma le idee c'erano già. Certo, c'era sempre il passaparola lo stesso, chiaramente. Sì. Ok, siamo pronti adesso per non passare la parola, ma per far sentire la musica di Charlie e la sua band. Cosa ci fate sentire come inizio per questo Blu Radio Sera, che terminerà, come si è detto, alle 22:30, quindi abbiamo tempo di far sentire un sacco di cose. Vogliamo eseguire un brano che si intitola Le strie. Sì. Che avrai capito vuol dire le streghe. Le streghe, esatto, sì. Quindi dimmi. Parla proprio delle streghe, di questo sabba stregonesco nel quale si riuniscono le streghe. Non è importante neanche capire bene cosa dice il testo in bresciano, perché è molto più da ascoltare come suono e basta. Anche da vedere se chiaramente dal vivo avrete determinate coreografie o le buttate così e basta. Beh, dal vivo c'è, sì, il contorno di luci. Ecco, esattamente. Adatto, però diciamo che l'importante è il suono e il ritmo. Che già dà tutto, sì. Ti fa capire. Questo è il primo esperimento di poesia musicata, sì. Non composta da me, ma dal Leonardo Urbinati, di cui già conosci, sì, qualcosa. Esattamente. Intero dedicato a lui. Esattamente. Io nel 98 ho chiesto al professor Leonardo Urbinati, potrei musicare questa sua poesia, Le strie? E lui ha detto, fammela sentire, dopo le decidiamo. ha dato il detto all'ok, sì, anche lui. Sono andato a casa sua con la chitarra e gli fa, dai, mi sono seduto, gli ho fatto sentire, mi ha dato l'ok. Anche come Bob Dylan, anche lui, o come Bruce Springsteen, che prima i loro avvocati sentono il testo, sì. Va bene così, allora sì. Ok, sentiamo allora il pezzo di Charlie e la sua band. Ok. Che pelle del fero, ma d'ora che puro, la luna più scura, le strie, le squala la cua, le valererie, a calda la scua. Le strie che strielano per mandare le urosovas. Le bombe a l'orcio, con le oggi le scale, una crappa per l'orcio, che griglia che sbaglia. Canto le ballo, è proprio con chelo, ma voglio più talo, le fanno le velo, le si fa la pala. Con lui le bolle e bucio, le trinca le ciuccio, le bombe se gioche, le squale e fang, le grida le bucio, le dute le piange, le bolle e la bolle e prima la lima la lama, si trova le rame, le bucio, le rame, le rame, le rame, le rame, le rame, le rame, le rame, le rame, le rame, le rame, le rame, le uno per caso, e poco mostaccio, le strutto a fondo in su, le parte las, farina le rose, al fondo da due, le pasta del giù, le piano pegnato, prendiamo le ras, le pesche veleno, le gira le mena, le cuanato, le messo per rose. Le strepo le strope, rotate da luna, le strego strigor, il più tinto della cuna, che fece il gabbeghier, che poca sta legger, del diale imbrona, che gira per ca, le tutte se uno, che pura buba. Cosa posso dire? Bravissimi, siete stati bravissimi. Bravo. Anche noi abbiamo il nostro folk, non solo il folk inglese, abbiamo il folk bresciano, possiamo dire questo. Ah, sì? E una cosa volevo chiederti, Charlie, il discorso delle belle, delle le ballate nere, è una tradizione, sì, questo è un pezzo che parla delle streghe, ma nella cultura popolare ci sono molto ballad, ci sono molto ballad dedicate nere, cioè praticamente oscure, tenebrose. Sì, esattamente, sono molto. Io ricordo le ballad, le murder ballad, le ballad degli impiccati rifatte da Nick, riprese da Nick Cave, la tradizione popolare inglese, il Firepower Convention, i Still Eyes Spencer. E questa è la ballata delle streghe, un pezzo molto bello, e avevi giustamente detto te, bastava sentirlo e si capisce tutto. Si capisce che quando cantano. And all your hurt, don't do it. Esattamente. And all your head, don't do it. Poor boy, you're bound to die. Questa è una non ci sono barriere a Blu Radio Sera. Si improvvisa immediatamente tutto. Tu hai parlato, mentre il microfono spenti, 18 album hai fatto, certo, in dialetto bresciano. Cioè, miei, 18 album miei. Tutti album tuoi, in dialetto bresciano. Cioè. Un'altra ventina per altri. Un'altra ventina per altri. Quindi una produzione enorme praticamente. Infatti non mi ricordo mai neanche le canzoni. Per quello. Devo leggere i testi tante volte perché sono troppe. Ma come escono tutte queste canzoni, Charlie? Come vanno fuori? Esco perché non ho niente da fare tutto il giorno. Ah, interessante. Poi c'è un'altra piccola. Dimmi, Andrea, dimmi. Piccola definizione. Ecco. Sette lettere. Comincia per T e finisce per O. Si chiama talento. Ecco, bravo, Andrea. Hai detto una cosa giusta. Talento. Talento. Il maestro Charlie. Maestro Charlie. Diciamo che ho fatto anche tante cagate comunque. Beh, tutti quanti sbagliano, no? Però poi si farebbe distinguere il bello. Certo, cioè, hai fatto tante cose. Però fai tante cose che hai fatto, poi hai deciso, no, voglio fare solo questo praticamente. Sì, mi dà più soddisfazione. Perché hai fatto anche televisione, hai partecipato, ha dato una mano a Giorgio Zanetti in convention, eccetera, altre cose. Sì. Cioè, hai fatto tante cose svariate, non solo musica, ma altre collegate alla musica, lo spettacolo, hai fatto dello spettacolo, possiamo dire questo. Mi piace anche fare del cabaret. Esattamente. musicale sempre, perché non sono un attore, non sono un cavalettista, però con un cavalettista tipo Giorgio Zanetti siamo riusciti a montare uno spettacolo di musica e comicità che è veramente esilarante. Appunto, chiaramente. Non era imperniato solo sul dialetto, ma su delle situazioni comiche che sono di, poi quelli di tutti i giorni, quelli che fanno ridere, no? Certamente. Quelli fanno... Non sto a dirlo perché... quelli di tutti i giorni fanno ridere, come? Ecco, è perché non ci accorgiamo, ma è così praticamente. È proprio... poi, per questo capolano mi è arrivato un messaggio al mio amico che dimmi. Quando tu piangi nessuno si accorge del tuo pianto, quando tu ridi nessuno nota il tuo riso, prova a scorreggiare, si girano tutti. è proprio così, sì, è proprio così. E poi ho letto un'altra cosa, tu hai fatto la colonna sonora di un film di Marco Preti, Lupo che corre, che è dedicato a un'impresa sportiva di Roberto Ghidoni. Sì. Che cos'era? Che impresa sportiva era? Roberto Ghidoni è un abitante dell'Alta Valtrompia, adesso penso che abbia 56-57 anni, si è cimentato per varie volte in Alaska nell'Iditarod Road, cioè? Che è una gara di resistenza sui ghiacci. Ah, ok. Per cui la prima gara che ha vinto era quella dei 550 km senza mai fermarsi praticamente. Certo. Ha vinto, non so di quante ore ha distaccato il secondo. Dopo aver vinto la seconda volta si è voluto cimentare nella 1800 km. Ma una cosa spaventosa. 1800 rotti km. Sul ghiaccio? Sul ghiaccio dell'Alaska. Nel giro di 21 giorni. Incredibile. Dormendo anche tipo 6 minuti al giorno, per dire. Sì. È riuscito a fare questa impresa incredibile. Mi ha raccontato personalmente che ha avuto delle allucinazioni. Certo, ci credo. Ma è logico. A un certo punto ero talmente stanco che ho pensato, se mi fermo è finita. Eh sì. Per cui vado avanti, mi faccio strada tra questi servitori medievali che mi fanno l'inchino sul ghiaccio e li ignoro. Tu pensi a te cosa ha visto? Ha visto di tutto. E quindi tu hai avuto l'idea di fare la colonna sonora di questa impresa, praticamente. Sì, è stato Marco Preti a confezionare tutto il filmato, ma sul campo. Sul campo, l'ha seguito proprio sul campo. Sì, sì, ha aiutato una slitta, chiaramente. Io ho visto le immagini, ho seguito tutto. Hai avuto l'idea, quindi hai composto la colonna sonora. Io ho dato una musica. Certamente. Dobbiamo ringraziare anche Alberto Prisco, che è il nostro curatore e direttore artistico, che grazie a lui stasera siete qua, Lo ringraziamo. Saluto, so che è in streaming. Sì, ma adesso arriverà fra poco. Arriverà a trovarci fra qualche minuto. Dovrebbe venire. Lo salutiamo, visto che adesso è in streaming. Certamente. Allora, un altro pezzo da disco, mi pare, e poi suoniamo. Che brano abbiamo scelto, Charlie? Ti ricorda che disco è? È da disco esatto, sì, che vuoi trallare là, praticamente. Ho scelto il brano numero 6. Che cos'è? Sentito? Ah, non ti ricordi Lunare, il titolo. Lunare. Andrea hai detto? Lunare. Perfetto, ok, lo sentiamo. Fai punch, è febbrile gli aromi, gaffretta poi hunch, a parlare e fa il fun. Febbrile è più curt, ma è peggio del turk, ha se la polaivo del paciuc. Allunga se ne, dei dei della merlo, del legna il fuc, che anvule naserlo, le mie buse ner, e non se ne reso. El peta febrer, na gran cureso. Marmatarel, en de preten de bel. El gahic venerde, el hara pretucide. Amarle un briline, abrile cumine. Ma fina la fi, te el capel. E marle hurt, abrile del tut. Labrino de abril. L'antene e il baril, il genetto in tu, fare male di tu, buttam fino al manec del badil. majo junur, hegetaci fiur, detteci culur, tahen poi haur. E majo le hut, happel fale tut, per nason de lort, tanem pinut. Azul la calura, la spiga madura, le ache in alturo, lichta le higuro. Han Piero e Han Paul, digni lontal diaul, che el fabel porto un foltaul. El pica son lei, el fa po' perdu, ha el nei boccai, a canta e grappa tu. El dede hantano, el canu e la cano, le dol ho l'angurio con la grano. Ha pade de agost, le hem per te mort, marenda nel buc, ed è via pena ngo. Appena sol hul, ambia la cagnolero, e come te ci de vero. Nel ria e tembe le parle ronde, a cata solo, a pede le cantine. E il più fa la cru, a buso le nu, e poi è quaranto de più. O tu er cucù, castegna favore, ignari hoi banc, all'esere crie, a hanta Teresa. Parlo de a distesa, a parla de piet, fo de l'acceso. Credo novembre, e giorna delle gambe, e samon de la tala, de a che de monzer, con la calabrosa, e il nono leggiande, uga nel brut, le mere conde. Andali via, la più lunga che ghia, la porta del tut, o la prima falia. Ne dale l'ultimo, el fengo le hoche, el vuol fioca, la ha che el fioche. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, abbiamo sentito questo pezzo di Traduco in Italia, Tralala, il disco era il Tralala. Sì, dal 1998 diceva Andrea. Sì. Ti ricordi come... è anche la colonna sonora della commedia allora questa qua? Sì, praticamente la commedia comprendeva 4-5 canzoni di questo disco. Nonché, insomma, anche canzoni popolari e dialoghi scritti da un regista che si chiama Giorgio Calvani. Perfetto. Andrea, ti ricordi il 98 come è stato inciso il disco? Hai qualche ricordo di quell'epoca? Allora, io mi ricordo che sono andato a fare le fise, a registrare le fise nello studio di Alfredo Golino, che qui ha suonato la batteria, un grande batterista, a Brione, nella lontana Brione, provincia di Brescia, uno studio molto carino. Sì. E c'era con noi anche Massimo Idelli, bandolino e sound, bravissimo anche lui, e abbiamo registrato le fise, sì, era il febbraio del 98 direi. Quindi era inverno pieno praticamente. Sì, praticamente io ho preso il maestro con me, l'ho spiazzato nel studio, gli ho messo le cuffie e ho detto suona. Perfetto. Sì. No, conoscevi le canzoni? Sì, sì, sì, sì, sì, perché avevi dato dei provini, sì. Ecco. Andrea, come Charlie, come compone, come ti dai i provini, come succede, voi tre, quando Charlie ha un'idea, Charlie Cinelli, Charlie Band, Charlie ha un'idea, come succede il discorso, come si sviluppa Andrea, poi parlate anche voi due. Ma semplicemente Charlie ci dà i provini, poi noi cerchiamo di dare il nostro apporto. Devo dire che Charlie, questa è una delle, per me, ma penso anche per, sicuramente per Marco e anche Enzo, anche loro, per me è stata una scuola, perché... fino al momento in cui ho suonato con Charlie, prima di suonare con Charlie, l'idea di gruppo era una specie di somma di 5 strumentisti o 4 strumentisti che suonano ma ognuno per sé. Invece Charlie ti insegna che il gruppo è una moltiplicazione in cui ognuno cioè il suonare è finalizzato a un'idea. Charlie è un musicista molto bravo che concede tanto ai suoi musicisti, che mette al servizio di un'idea musicale. È, ho capito. Cosa, è una scuola impagabile. Quindi lascia libertà totale. No? Sì, libertà. Non è egocentrico. Nel senso che comunque la canzone è al primo posto. Cioè, ed è per, siccome normalmente i musicisti nascono, almeno per una mia idea, sono un po' innamorati del loro strumento, dei loro riferimenti musicali. Quando arrivi, hai la fortuna di suonare con uno come Charlie, cambia il mondo, perché ti insegna che la musica invece è essere insieme, è la canzone da accompagnare, da creare i colori, cioè è una cosa fantastica proprio. Gli inglesi li chiamano, meno gli stranieri, li chiamano jam session, praticamente Charlie, voi fate continua jam session nel senso positivo del termine, cioè libertà assoluta. Sì. Oh. Certo, c'è spazio per iniziativa estemporanea. Ok, l'iniziativa estemporanea 21:39, suoniamo estemporaneamente, non estemporaneamente, suoniamo veramente. Stavi parlando di, anzi mi stavi chiedendo se anch'io con un microfono... se andavo in giro a captare le cose... Con un mangiacassette. Sì, una volta si usavano i mangiacassette. Esattamente. Se sei andato in giro, sì che l'ho fatto. Sono capitato una volta nei miei giro magari, soprattutto per osterie. Perfetto, quello è un posto ideale. Sì, che alla fine... quando riesci a trovare il signore anziano in vena che ha voglia di cantare o di raccontarti una storia, che sia ancora abbastanza sobrio, certo, no, io il momento giusto, il momento giusto, se no ti racconto. Vabbè. Ho avuto l'occasione e la fortuna di avere questa testimonianza di un signore molto anziano a Sarezzo, il mio paese, che mi ha raccontato questa leggenda del Biscio Gallo. El Bes Galili, cioè di questo serpente mitologico con una cresta di gallo che s'aggirava per i boschi, no? Per cui chi si nutrava nei boschi doveva stare attento a non incontrare sto Biscio Gallo, perché il Biscio Gallo, se ti guardava dritto negli occhi, ti impietriva. Perfetto. Tu diventavi di pietra. Però c'era la possibilità di neutralizzare il Biscio Gallo quando si recava a bere. Ah. In quel momento era vulnerabile. L'unico momento era vulnerabile. E se tu eri abbastanza coraggioso da affrontarlo mentre beveva, era completamente distratto, gli strappavi quel piccolo diamante che aveva tra gli occhi. Perfetto. E così avevi vinto il Biscio Gallo e avresti goduto una grandissima fortuna, e naturalmente non è successo a nessuno. Esatto. La leggenda racconta così. Bellissimo, bellissimo. Ok. El Bes Galili. Benissimo. Don't you care about love? mi dei vecini rara, e galini rama e tua, e la leggenda resta lì. E poi avremo la neve, la neve, la neve, la neve, la neve, la neve, la neve, la bravissimo, un pezzo molto significativo, un po' diverso dagli altri, secondo me, un po' particolare, un po' misterioso, avevo quel suono proprio da biscia, ho sentito proprio forse una biscia e via. molto interessante. Ho letto su un articolo: italiano dialetto a Sanremo ci andrei. Cosa vuol dire, Charlie? Italiano dialetto a Sanremo ci andrei adesso, se ti chiamano si offri di corsa, non è che snobbo, no, assolutamente no, la volpe con lui, che servirebbe molto per ampliare il discorso. Sembra quest'anno ci vada il Val d'Esfro, ci va sicuramente, è già iscritto almeno nei primi, cioè nei 20, certo, big, certo. Ci andrà anche lui, quindi una specie di sdoganamento della cultura popolare. Cosa, sì, sdoganamento di un genere, esattamente, perché la lingua è importante, ha delle sfaccettature, ha il dialetto, ha la capacità di portare con sé delle cose che l'italiano non ha, è vero, degli insegnamenti, quello della biscia per esempio adesso, delle leggende, esatto, che leggende hanno sempre, sì, sono leggende, però hanno sempre un filo conduttore nella cosa di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni, certo. Poi dei modi di dire sintetici che una volta si usavano perché non era abitudine dilungarsi in discussioni, descrizioni, no? Si diceva, ma va, fa pencila, e voleva dire queste, sì, cose. Sì, esattamente, voleva dire chiaramente, devi far presto, devi decidere, la frase. Nelle nostre parti, nelle valli, ancora adesso i più anziani si salutano semplicemente con un cenno. Ah, ho capito. Oppure quando devono dirsi qualcosa, sanno di cosa stanno trattando e dico semplicemente Ah, così fa, sì. un onomatopeico quasi, sì, quando uno non è d'accordo su qualcosa dice si scattalavo, dice che non è d'accordo, ecco, per cui già si sono parlati, capito? bene. E quindi tu hai scovato tutte queste cose qua, oltre al microfono sei andato a sentire, a scovare, a capire, a sviluppare, non è mica una cosa, ho vissuto anche da piccolo, ho vissuto in mezzo ai vecchi, insomma, non c'era ancora la tecnologia. Io ho 52 anni. Ma sei ancora giovane rispetto a me, che non puoi dire di più di te? Beh, insomma, abbiamo vissuto delle realtà che adesso i giovani non sanno cosa siano. No, adesso esattamente, adesso nell'era del computer, della tecnologia totale, certe tradizioni si tendono a dimenticare ed è brutto così. Cosa dici? Non è giusto che siano dimenticate. No. Come non è giusto che sia sempre continuamente, no, ripetuto. Una cosa, un equilibrio, un giusto equilibrio delle cose praticamente. Mi viene in mente, sempre parlando di ricerca, che un paio di centinaia di anni fa c'era una serenata, sì, in voga, la si cantava spesso, non solo nel bresciano, ma in quello che è stato chiamato il lombardo orientale. Ah, ho capito. E che evidentemente aveva anche, oltre alle influenze meneghine, anche da San Marco. Sì, quindi veneziane. Perché ci sono dei termini, te la faccio sentire. Sì, ok, certamente. Perché è una serenata che anch'io ho provato a cantare da ragazzo, no? sotto il bancone della mia bella, certo, ragazza, come si faceva una volta, si faceva la dichiarazione in dialetto. Esatto. I miei amici avrebbero avuto qualche bicchierino. Serve anche lui quello. Lui stava dietro il cespuglio, attualmente. E tu cantavi. Sono stato a fare la serenata, ma la serenata era talmente vecchia, talmente antica, che invece della ragazza è uscita sua mamma. Ah, perfetto. quadra il cerchio assolutamente. La sentiamo adesso, così intitolo il pezzo, allora? Serenata. Perfetto. Oh Margì, salta fuori del balcone, che d'amor chi lo crebbe per te. Dopo spè, mangia pa de mergù, la polenta, la prepara toc de fè. Tu bagù, non termine del cielo. Se io sei o il farfalle, mi saetta, e servici, poi che la so più Le gruppi che consula la poca e bocchi decora, dove i grassi e i basi che ridula, e i falon diventare si fura. O margì, salto fuori del balcone, che d'amor chi lo crepe per te. Non posso più, mangia pa be melgun, la polenta la me par toc de fe. Bellissimo, bellissimo, il folk, questo è il vero folk, folk delle nostre contrade. Hai capito cosa vuol dire siforal? No, non ho capito. Lo zufolatore. Siforal è un disco che ho sentito anche chiaramente fra tutti che mi hai portato, che mi ha colpito perché è molto più folk rispetto agli altri, racchiude determinate... Tu hai scritto nel disco che hai raccolto anche delle storie del 1400, delle leggende, dei richiami del 1400. C'è un documento in particolare, che è un testo della fine del 400, che si intitola La Massera da Be, cioè la brava massaia, colei che in assoluta povertà e indigenza si reca dal paesino Colle Beato al tempo, detto Cobiat, alla città. Veniamo alla città col cist attaccata al braccio. Cioè? Veniamo alla città? Città col cesto. Ah, col cesto, ho capito. A cercare lavoro, per certo. Cui a offrire i suoi servizi alla Massara Inak, che al tempo penso dovesse dire Ines. Mm. Massara Inak, che invece è una signora benestante della città, che sicuramente avrà bisogno di qualcuno che pulisce, che tiene la casa, che fa da mangiare, eccetera. Certo. E questa Massera da Be di Galeazzo dagli Orzi narra proprio del discorso tra, non tutto il trattato che è lunghissimo, ma un riassunto tra Flor da Cobiat e Massara Inak. Benissimo, cioè questa ragazza cercava lavoro, cercava una vita diversa praticamente. E il fotrat, una fonda che cercava guadagni. Ecco. Strasuda, senza pai, brutta come un savat. Si capisce? Sì, sì. Capito, sì. È un latino in volgarito, quasi in dialetto. Solo. Ma è bello, molto bello, molto simile. Dopo te la canto. Sì, certamente, perché il disco mi è molto piaciuto quello là. Sifural. Molto, mi è molto piaciuto. Ti dicevo che il Sifural è colui che zufola e qua si è distratto, no? È svanito via, è appoggiato all'angolo della strada che non sa neanche cosa fare, perché è in panne il suo corpo per la sua ibella. Ah, vedi. E per quello è diventato Sifural. L'amore porta sempre a degli sconquassamenti, delle cose molto particolari. Una cosa ho letto recentemente, cioè proprio ieri sera, leggendo la tua biografia, che nel 2009 hai fatto un tentativo con una banda. Sì, una banda vera e propria. Come mai il tentativo con una banda vera e propria? Allora, dei pezzi tuoi ripresi, rivissuti in chiave bandistica. Chiave bandistica. Mm. Perché innanzitutto io ho cominciato a suonare a 15 anni nella banda. Mm. Nel paese. Nel paese. Certo. Suonavo il sassofono. Suonavo il sassofono. E ho imparato a leggere le note e a stare al mio posto dentro un organico. Certo, che non è mica semplice. Ecco, la mia prima esperienza con le prove col maestro Cuscito. Ah, caspita. Che Andrea conosce. Bravissimo musicista, grande direttore. Splendido. Dirigeva la banda e in quel momento stavamo provando la Peer Gynt Suite. Mm. E c'è una parte, nel bel mezzo di una sonata, che è affidata al solo sassofono baritono. Quindi a te praticamente? A me. Mm. Infatti il mio compagno di sedia che suonava il baritono mi aveva passato il baritono perché lui aveva suonato il tenore. Perché io suonavo quel sassofono, quel che fa la curva più grosso. Mm. E c'era una parte che doveva fare... Quando è arrivato il mio momento... Non ce la facevi più. Scena muta. Sì, perché ero emozionato, poi non avevo capito che toccava a me. Ho capito. Il maestro mi ha fulminato. No? Lei! Non l'ho più suonata quella roba lì. Basta. Sai quando ti blocchi? Certo, sì. Ecco. Bloccato e basta. Ho toccato passare il sassofono da quell'altro. Dopo tanti anni hai deciso di fare un esperimento su questo genere. Allora, ripensando alla banda e conoscendo dei direttori di banda, tra i quali questo mio amico Francesco Andreoli, direttore di una banda di Ghedi, mi ha dato la proposta e io ho detto sì, ma chi è che scrive gli arrangiamenti? Appunto. E lui, li scrivo io! E ha scritto gli arrangiamenti per 15 brani. Tuoi riarrangiati? Sì, riarrangiati per la banda e sono venuti una bella cosa. Sì, ho registrato io, ci ho ricantato poi sopra io a casa, certo. Nel mio studietto, e mi ha fatto un prodottino. Poi te lo mando allora. Certo, certamente. Si chiama Stambanda. Perfetto, dobbiamo ribadire che Charlie Cinelli regista, cioè praticamente è produzione totalmente tua, gli arrangiamenti sono totalmente tuoi. In questo caso ti ha dato una mano questo maestro, ma sì. nel disco, nell'ultimo disco che hai fatto, che è dedicato a questo poeta bresciano, Urbinati, sì. Esatto, gli arrangiamenti li hai fatti tutti te, o ti danno una mano anche i ragazzi qua della banda? Mi ha dato una mano anche loro, certo, sì, soprattutto Andrea. Enzo, che trovano le parti, poi io compongo e scompongo, perché sai che il computer si può tagliare, certo. Cucire... Non sono soddisfatto di questo giochetto che fai, componi e scomponi? È il maestro di una musicalità, insomma, non è piaggeria questa, eh? È proprio verità, vera? Cioè nel senso, gli viene facile. Cioè... Ma voi siete tutti d'accordo quando un maestro fa un pezzo? Un taglio. Quando taglia un pezzo, Andrea, Enzo e... E siete d'accordo? Sì. Totalmente? O Marco, siete d'accordo? Perché poi durante un concerto dal vivo... ho fatto tutto diverso? Non tutto diverso, ma però quasi. Tutte le volte c'è un... nasce sempre qualcosa di nuovo. È bello, quindi. Ma è un po' pericoloso, allora? Eh? È un po' pericoloso per voi o no? Suonare o... No, musicalmente è un po' pericoloso, cioè non sapete mai come va a finire. È piacevole. È piacevole. È palestra, l'episodio, sai, l'aneddoto di Charlie è questo. Mm. Siccome appunto, come gli ascoltatori hanno capito, Charlie ha scritto tantissimi pezzi. Allora, certo. Ogni tanto... Che non se li ricorda da prima. No, no, sì, va. Cioè, se li ricorda come era. Ogni tanto ti viene la domanda, non, adesso ultimamente siamo più disciplinati, però... specialmente d'estate, ogni tanto facciamo il concerto con Charlie, ma giusto per sapere, quale sarà il primo brano della scaletta? Quale sarà? La risposta è, lasciamo che sia il momento a deciderlo. Perfetto, è perfetto. E adesso, in che momento decidiamo, Charlie, adesso? Cosa vuoi sentire? Avevo pensato di provare a cantare leggendomi il testo, chiaramente. Chiaramente sì, il testo è sì, carta canta. La Massera da me. Ok. Bellissima, è bellissima. Okay. È un'atmosfera piuttosto che questa raccolta sì. E folcloristica rinascimentale. Ecco, proprio così, che va benissimo. Brigada, sa tucci, fa mei. Ma serie pucci. Corri, corri, corri, corri, zaprestamente, che vuoi di una canzone. Una fonna che cercava guadagni, strassuta, senza pane, brutta come un savate, pelosa come un gatto, la pariva in del volto, un mesorel del volto, era porta tutta corta, la venba di la porta, che so decadu si, e mi rispondo, che volì, ponte, case finca. Sara, buon dì, Madonna mia, Madonna che sì, che ande fasata, ma Sara e sua flor ne copiata, veniti si da dentro e me veni un talento, le veni fa trovare, o in tesca se filà, veniamo per quello, o tu tasto sacchello, da locale, se da te. Che sta subita tutta la lavora o con un da sapà o perché è la mele o che non ha da bere o che non ha forme non va forte va bene porta per lui a prendere non sa più difendere tanta povertà vignuma la città tu ci staccata al braccio e quel poco scannà o qualche polastrella a mangio il padre mei, a risumna il fornetto, mante fode se ne e me li perde tutto, e li resto un sul sud, e ti su mi che mi e vengo la sermeta, per comprare un po' di me. Tutto il mio pianto tutei, perché i sera da freddo, e lo pugna da me, campato qui sul ferro, su di che la va bene, la poca senza il sarà, tu quando stai da qua, per quanto un bel assoluto, o guardi un quattaglio, o che il cavalcare, e lì sono desperati. Madonna di sì, che sarei fa, e poi la sta qui me, ma sarà Madonna e dove c'è, fare un soffermo lì, fino a te se lo qui. Il pasta al pa, faccina e fatusna, e che in metà ca, qualcosa è quel senza, s'andava maravia, sto sa che ho zozzea, godette strasola. Del faccina e disna, come avta pur tarif, ma Sara, secondo il sordo cifo, se sarà rosto l'es, torta pulam un pes. E no qui stiamo no, madoni, il nostro sermo, curata descrizione. Se va data a piacere, dove che un salsissimo, che mi ha fatto pull, la taglia a me un fasullo. Passare in a chi sta su nera, tornare a lavorare, o che ne da sapare, o perché che la mene, che non vada a bere, o che non la formetto, tutta va fuori, ma dentro, portata brutalmente, e non sa può difendere, c'è tanta povertà. Charlie alla chitarra, Marco alla chitarra, Andrea alla fisarmonica, Enzo al violino e Charlie Cinelli Band. Bellissimo, un pezzo molto folk, decisamente folk. Molto bello, molto bello, molto significativo. 22.06, tutto assolutamente dal vivo, tutto in diretta, Charlie. Live, bello, il live è quella cosa fondamentale. Per te il live è fondamentale. Senza live non esiste Charlie Cinelli Band. No, mi stuferei a fare, a suonare solo in studio a casa, insomma, bello suonare in mezzo alla gente. Tu che hai suonato tantissimo, poi hai deciso di fare questo, portare avanti questa strada, 18 dischi, mica uno, 18 dischi, e l'ultimo, uno degli ultimi, hai parlato anche di jazz. Sì. Ti sei buttato al jazz. Certo. Com'è stato l'esperimento del jazz ripropondo i tuoi pezzi praticamente? Allora, io ho anche suonato il contrabbasso. Ah, quindi hai suonato un sacco di strumenti. Al mio tempo. A tuo tempo. Suonavo il contrabbasso, per esempio in Inghilterra suonavo con una big band. Che riproponeva Glenn Miller. Ah, bellissimo. Allora mi hanno consegnato una bella divisa militare. Come si usava, come si usa in Inghilterra. E si facevano le sale da ballo. Certo. Eravamo una ventina, un bel sound. E il contrabbasso ho suonato anche con dei musicisti, miei amici bresciani, per i quali Sandro Gibellini, forse conosci, sì, chitarrista eccezionale. Certo. Ho suonato con Pietro Torolo, che di Milano, mi sembra. Sì, Torolo, sì, sì, esatto. Ho suonato con un sacco di gente, insomma. E allora un bel momento ho detto, perché non provo a fare, visto che mi piace il jazz, alcuni dei miei brani così, che si chiamano in chiave jazz. Però non quello difficile. No, no, non quello difficile. No, non roba impegnata, né free, né hard bop, insomma. Jazz, tranquillo. Tranquillo. Diciamo... soft, così c'è stato Enrico Tomasini di Moena la batteria, Sandro Gibellini la chitarra, Pietro Tonolo sassofono, Charlie contrabbasso e canto. E canto, non suonavi la chitarra stavolta. E canto in inglese. Ah, canti in inglese. Certo, perché i testi delle canzoni li ho tradotti in inglese. E come hai fatto al bresciano per tradurre in inglese? Ti manderò anche quello. Incredibile. Interessante. Molto interessante, molto difficile secondo me. Te me lo segno, devo mandarti quello dalla banda. Esatto. Quello del jazz e quell'altro folk che ti manca. Esattamente. 22.08, visto che abbiamo solo 20 minuti, dobbiamo utilizzarli per una sola cosa, suonare, come dicevano il PFM tempo fa, visto che il PFM sono le tue basi. Suonare. Esattamente. Beh, cosa suoniamo? Io voglio sentire, scusa se mi intrometto, quel pezzo che io ho messo su per un mese e mezzo qua a Blu Radio Veneto. Ah, le rose bianche? Che bello, che era bello, che Enzo ha detto che è un sacco di tempo che non suona. Però, non suona, che sono te lo ricordi? Ma neanche io, eh? Ma facciamo tutto live! Sotto le rose bianche la bella lava spas più delle rose bianche gli e bianchi sono bei bras. Nel giardino suo padre la pillina la spa se per la Ma non ste stai pezzetto, lo so, ti ho messo in difficoltà, ma era troppo era troppo bello. Io, a me piaceva moltissimo questo pezzo. Avrei potuto inventarle, però tanto, sì, beh, capisce, però non è da te. Tante volte io canto, non so, anche un certo, dico scusate, ma mi dimenticherò anche le parole, però la canzone è mia e faccio mi pare giusto. Ma come mai ti sei dimenticato? È tanto tempo che non la suoni questa qua. Questa in particolare è un sacco di tempo che non la faccio. Come mai? Secondo io lo trovo meraviglioso questo pezzo qua, non so, io l'ho sentita così. Perché ti spiego. Dimmi. Ci sono vari brani, tra i quali quello che abbiamo sentito prima, la sera da me. Sì. Oppure questo, oppure ce ne sono altre due o tre che tu avrai sentito nei dischi, che sì, non sono proponibili. Mm. Nelle occasioni più di casino, ah, ho capito, di festa, la birreria, certo, la festa, ci vuole un pezzo, ci vuole da muoversi, esatto. Allora l'ambiente adatto l'abbiamo inventato noi istituendo questo Teatro Cinelli. Perfetto. Vale a dire, abbiamo raccolto una parte di questo repertorio che ha bisogno del teatro per essere proposta e adesso lo proponiamo con i sovrattitoli. Ah, bene. Così la gente capisce? Sì, c'è proprio la proiezione del testo in italiano sopra sull'arlecchino del palco. Sì, che possiamo fare dei brani tipo quello del paese, tipo quello del Besgali di prima, La Massera da Be. Ce ne sono, adesso te ne leggo alcuni, tipo Nella Cesa. Ah. C'è un brano che si chiama Nella Cesa, che tu non hai perché è un disco che non hai qua. Ha bisogno della luce giusta, l'ambientazione giusta, del suono giusto. Ci sono i cori. Gli strumenti suonano piano, non passano dal forte al pianissimo, capito? Per cui ecco qua Teatro Cinelli. Teatro Cinelli si può trovare sì, su un sito che si chiama teatrocinelli.it. Perfetto, citiamo il sito allora, visto che ci sei, hai qualche altro riferimento sul sito dove possiamo trovare i tuoi dischi ai concerti oppure richiedili a te direttamente? Allora, i dischi si trovano ai concerti o si trovano sul sito charliecinelli.it. Perfetto, chiarissimo, semplice. Si parla col Franci. Franci, vado a comprare i dischi. Che è il tuo manager praticamente. È quello che si occupa di questo. Ed è fondamentale anche sì, questo. Sì, è una persona irruenta. Irruenta, ok. Oppure nei centri commerciali. Ah. Io per esempio giovedì, sì, che è giorno della Befana, me ne vado bel bello in un centro commerciale Auchan, dove c'è il bar, a fare pubblicità ai miei dischi e li vendo lì. Ah, perfetto, bello. Domenica 9 vado al centro commerciale Altroni di Desenzano e sono lì e vendo i miei dischi. Subito faccio così. È giusto che sia così. Non si deve da fare. Infatti, imprenditore di te stesso mi pare una cosa ovvia, giustamente. Suoniamo ancora 22:13, cosa ci proponete adesso? Quello che volete. Siccome tu non hai l'album che ti manderò. Bene. Terzo album che devo mandare. che si intitola In casa e in cesa al bar. Ok. C'è un brano che parla della tempesta da grandinata del 2003 che ha distrutto sul lago di Garda, sì, e non solo, e che ha fatto dei disastri. Io l'ho vissuta in prima persona e ne riporto così il testo di una canzone con un detto popolare che è mai di mal del dè finché è sera, cioè non parlare mai del giorno finché non viene la sera, ma quella volta è andato ben oltre, certo, arrivati fino al giorno dopo. Si intitola così, mai di mal del dè. Perfetto. Guarda forte c'è anche e bene. Il primo di agosto, ma che mento sei di quel che l'impromette niente bene, e tanto fa un gran temporal e il vento copia come mai e pole ambia un festa e le alberi le mura il cagnino le galline che le mura e il pire la cammina mai di maderne finché nero ma che le ha tutta la cera e lui la avrà ti dispari di maderne ma che fa paura vuole soccorare Fono fonda che era corta di carattino la galega o de tarasco il tacco stoppa fuori tu e il mondo va da fonda e morte con le male che qua c'è e le che l'uva che va porta tanto sotto il cane che via porta a me mai di maverde finché era che la gatta c'era e lui la apre ti disse mai di maverde ma che fa paura vuole sotto la chitarra a te macchine sfoggiate e le baite a cagnare stanno appena un picco meno male che visto ogni nostra campo te acqua c'è le spiegare che per chi la sta mai di maderne finché era ma che la gatta c'era e qui la capre all is so far bello, bello, yeah. Proprio una vera e propria Zen Session, ripeto, secondo me, ma molto bello. A proposito di dal vivo, come li allarghi, come li allargate i discorsi musicali? Dal disco è così, e dal vivo come li allargate? Proprio lo cambiate totalmente il brano o c'è sempre il filo conduttore? Può essere cambiato. Ah, può essere cambiato. Sì, non... Dimmi, dimmi. Fuck. che ci ha vede bene le dita. Uè mamma di lima che ci ha vede bene le dita. Fiola mia da un hem perdit che non era un po' partit che per forse tra le dita ma gioia col tuo marito. Molto jazz, Charlie Cinelli Band, ladies and gentlemen, live, assolutamente live, bravissimi. Grazie, grazie, sì. Grazie per averci ospitato. No, non abbiamo ancora finito, abbiamo ancora qualche minuto. Per una sera, è bello, bello, grazie a voi, avete fatto un'atmosfera splendida, meravigliosa. Questo è un brano popolare, vissuto e corretto in chiave jazz country, possiamo dire, un po' di così. Sì. Un po' molto americano, americano a tua maniera di vedere le cose praticamente. A inventarle, perché è comune a tante regioni questa, certo, questa storia, perché la figlia si vuole maritare però non ha la dote, allora il padre dice, torna a casa dei campi e dice devo vendere il bue per poter pagarti la dote. Poi quando lei si è tornata dopo 15 giorni se ne torna a casa piangendo, dice che le prende la mattina e la sera. Il padre dice te l'ho detto, era il tuo partito, adesso tornatene a casa con tuo marito. E qui, intanto ha venduto il bue. Esatto, e quello è il discorso. Benissimo. Tu hai detto che ti presenti i dischi nei centri commerciali, ma fai qualche concerto live, qualche concerto dal vivo, fra qualche giorno, ti ricordi qualche data? Sì, certo. Dunque, sai dov'è Riva del Garda? No? Certamente. Lì vicino c'è un paesino che si chiama Limone. Limone Pio, sì, bellissimo. È un posto meraviglioso dove vivono gli ultracentenari. Sì, bellissimo, un posto bellissimo. Si vede che l'aria, l'acqua, i limoni, il vino, ma sapete, l'olio. E lì c'è un locale che si chiama El Gato Borraccio. Non c'entra niente col dialetto perché vuol dire il gatto ubriaco, no? El Gato Borraccio, di un carissimo amico Michele, che ci aspetta tutti venerdì sera, che è il giorno 7. Sì, dopo la Befana, sì, il giorno dopo la Befana. Di sera ci aspetta tutti a bere. Perfetto. Obbligatorio. Mi trovo a bere perché poi lui beve con tutti, non capisco come fa, c'ha tipo 15 tavoli. Ad ogni tavolo lui c'ha il suo bicchiere. Ah, perfetto. E va da tavolo in tavolo e beve veramente, che fa finta. Lui dà l'esempio e tutti che bevono. Ma resiste, sì, dopo. Se lui, lui resiste, sì. C'è un allenamento pazzesco. Sì. Resistiamo anche noi, nel senso che poi stai a dormire, chiaramente. E vado a suonare venerdì sera, dopo cena, tipo lì c'è un bel ristorante, bella enoteca. Dalle 22:30 in poi faccio un one man band show fino alle 8 mattina. E anche lì è da sentire veramente, perché un'altra, diciamo, cioè Charlie, per chi è, vuole imparare l'ABC, l'alfabeto, una lezione pratica di come ci si accompagna con la chitarra, one man band fa veramente impressione. Si impara come si suona dal vivo, sì, praticamente. Davvero, c'è una cosa impressionante. Bello, molto bello. Quindi, giovani, prendete su da Paolo del Tre Venezia. Andiamo tutti a Limone. Limone del Garda. A ringiovanire di giorno e invecchiare fesso molto la sera. Esattamente. Ok, facciamo un altro pezzo, dai, abbiamo ancora tempo. Sì, quello sì, che sì. Volete. Allora. Avremo da cantare finalmente, visto che è un certo orario, dove è la Ninna Nanna. Bene. Cosa ne dici? Certamente, va benissimo. Perché i più piccoli in ascolto magari adesso... Beh, vorrei andare a dormire. Sì. Beh, aspetta, ha detto che c'è la Ninna Nanna. Esatto, quindi lo sentiamo. Questo mi viene con un po'. Ok. Perché una volta si raccontava le storie un po' truci, no? I bambini che prima di andare a dormire. Si raccontava quella della gamba d'oro, mai sentita? No. La signora che... si era fatta fare una gamba d'oro con i suoi averi, perché aveva la gamba malata, siamo dovuti tagliare la gamba, lei si era fatta fare con i gioielli e le monete d'oro che aveva. Quando poi è morta questa signora, che era molto anziana, le tre figlie l'hanno seppellita con la gamba d'oro, si intende, chiaramente. Perché lei si era raccomandata, mi raccomando, seppellitemi con la mia gamba, certo. Le tre figlie dopo la cerimonia funebre subito dopo, la successiva, vanno al cimitero, scavano la fossa, aprono la bara e le portano via la gamba. Gliela portano via con la gamba, loro avevano un sacco di soldi. E quando sono tornati a casa, sono lì che si contendono la proprietà e sta gamba, la tagliamo, cosa facciamo? No, tu, però tu hai avuto di più, però io qua mi metto a litigare, no? E sono lì che litigano su questa gamba d'oro che risultava dalla cucina e sentono: vuoi la mia gamba? A questo punto i bambini si spaventano. Eh sì, vanno tutti a letto. O se no, le ninna nanne delle nonne erano: questo bimbo chi lo darò all'uomo nero, che lo tira un anno intero. Cioè, ti rendi conto come si andava a dormire, no? Certo. Io andavo a dormire personalmente con un mio fratello, i miei cugini nello stesso letto, no? Ognuno con i piedi al contrario dell'altro. Ho capito. Per cui avevo i piedi di mio fratello e mio cugino qua sulle spalle. Spalle. Fatto sta che mi addormentavo subito. Per forza. I piedi fanno qua. Esatto, la camomilla. Okay. Allora, per rimediare a sto fatto delle storie truci, abbiamo scritto una ninna nanna che si intitola Cali. Ok. Cavallino. Ed è una cosa tipo country, eccola qua. Ecco. Guarda che faccio. E un bel dì che vegnerà, molto piano piazzerà, e ti cantega per me, che la nina nana che, nel cantare pare, nel tocco la padre. Cosa dire, è stato bellissimo questa un'ora e mezza assieme a Charlie Cinelli Band, ovvero sia Charlie, Andrea, a Marco e a Enzo. È stato meraviglioso, non so come ringraziarvi, siete venuti qua da noi, qui da Brescia, per far sentire un'ora e mezza di musica, veramente musica con la M maiuscola. Beh, noi speriamo che anche gli ascoltatori siano rimasti soddisfatti. Certamente. Incantati, divertiti. Divertiti e poi la vostra capacità di suonare ha catturato sicuramente i nostri ascoltatori. Grazie di tutto, grazie a Marco Borgato in regia, grazie a Chiara che ha fatto le fotografie. Io vi chiedo un'ultima cosa, velocissimamente, quello che volete voi, un pezzo veloce, un refrain, quello che volete voi per concludere la serata e augurarvi una buona serata. Sì, possiamo fare una cosa veloce. Una cosa veloce. Centenario. Perfetto. Fra poco, dimmi. Dedicata all'anzianissimo, il centenario, cioè con più di 100 anni, che si rammarica che quando tirerà le cuoia, dovunque andrà, paradiso, inferno, purgatorio oppure isola della terra del fuoco, ci saranno i bar. È quello importante. La fantasia, le vine qua qua qui, non che crisi o carestia, che me po' le prudi. Non che birra, non che bitter, se ne spirra la fantasia, le scarabbe un bel neslitter, ma la sfumano per via. Ma oramai sono centenari, e mi aspetta che sarà, ma mi spiace lo fine di scarabba. Ma ne resta la speranza, che così soltanto ste, se vai a gente per dire, fatti c'è. Se come antipici rientri, prima che la strega casa, come casa in cui bel fe, ti sfonda un po' e sconti tra casa, il convento è sare io, ci vuole mette tutto il paradiso, so che il mondo è in fede, ci teme se frega su il farmis, ma ormai so sentenare, e mi aspetta che sarà, ma mi spiace con fili di scarafà. Ma per restare la speranza che si affreda a mostre, c'è mai a gente che viene in papice. Fantasia, debine, qua quartino, non che crisi o carestia, che me pode frulli, non che bitter, non che sulla la fantasia, e scarabbe un bel mestiter, ma la prova non per via. Ma ormai so sentenare, e mi aspetta che sarà, per rischiasse confini di scarabba. Quando resta una speranza, che chi sia sulla nostra, se mai agi di pedire in capice. Yes! Yeah! Grazie tante a voi. Buonanotte. Saluti.